e tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Stiamo vivendo live anche questa prima giornata dell'anno, o meglio, prima nottata. Ragazzi, ancora al conto alla rovescia per il 2019, arriva insomma un po' in ritardo, ci sta che insomma ognuno ha i suoi tempi, le vogliamo bene anche per questo. Esatto, le vogliamo bene uguale. Allora abbiamo un bel quintetto di ragazze qui nei nostri studi che vogliono insomma raccontarci qualcosa. Vengono da un paese molto lungo, della provincia di Brescia, che avrete sentito in altre forme. La ragazza intanto ha le scalmane. Scusa, come ti chiami? Io sono Nicola, piacere. Piacere Nicola, ma sei sicuro che non siamo in un acquario? No, no, non siamo in un acquario. Sembra di essere un pesce a bocca. Un pesce, che pesce saresti? Palla! No! Quelli che si illuminano! Esistono, no ragazzi? I pesci che si illuminano. Quelli al neon. I pesci al neon. Io non la conosco. Che film guardi su Netflix? No, anemone, l'anemone, ma anemone. È la ricerca di Nemo. No, l'anemone è un fiore, non è un pesce. La ricerca di Nemo. La ricerca di Nemo, a LED però. A basso consumo, una ricerca sempre, a basso consumo. Sempre. Perfetto. Attenti all'ambiente. Attenti all'ambiente, è giusto, i LED consumano meno, perfetto. Allora, potete chiamare uno psichiatrico se volete, siete liberissimi di farlo, poi vediamo il numero, contattato, così date una mano, insomma facciamo anche dei servizi sociali utili alla popolazione. Se volete dare una mano a questa ragazza, come avete sentito, ha un po' le idee confuse su come funziona il mondo. Però è simpatica. Però è simpatica, si dice sempre così di quelle che non hanno altre, esatto, altre cose belle da mostrare. Ma le bu. Cioè, stai dicendo che non lo di altro. No, lei ha detto che sei simpatica. Sì, si è presa le sue colpe, eh. Allora, non avete ancora detto, ragazza, in menopausa in tutto questo? Che è alle scalmane, è una scalmane, penso che funziona pure l'aria, anche. Cioè, sì. Allora, ragazze, da dove venite? Travagliato! Eccolo, vedete, giustamente questa lunghissima finale. Ma molto, si sentono da dove? Io ritengo. Anche da, però Travagliato. Non lo dico perché sennò mi sento in minoranza. Però, lei viene da un altro posto. Io vengo dalla Francia Corta, ragazzi. Aspetta, comunque, io vi consiglio questo posto. Aspetta, scusa, perché la ragazza sta telefonando a casa. A me non mi interessa. Ah, no, volevo disturbare la telefonata. Volevo dire che questo è un ottimo ecosistema. Perché per la pelle. Ha mangiato Piero Angela per cena. Per la pelle, ragazzi, perché qui. Mi si dilatano un sacco i pori. Voglio diventare amico di questa ragazza subito. Cioè, questa che parla come Piero Angela, questa che parla dentro una cuffia. Per la pelle, ragazzi, io vi consiglio questo box ambiente. Informazioni. Ambiente, ecosistema. Ci stiamo purificando. Sì, è un box informativo. No, davvero? Sì. Lavorare l'info point e l'altro è Francia Corte, se volete passare vi faccio la destra. E anche un pompino. No, quello di Perati. Sì. Cioè, è calato il silenzio. Ve lo bippi. Sì, ci ha già bippato da mo. È un cocktail, chiaramente, no? È uno shortino. Shortino. Sì, quello lì che hai detto. Shortino, è uguale, sono fratelli, shortino. Sinonimi. Allora, come vi chiamate? In tutto questo non abbiamo ancora detto come vi chiamate. Paola. Chiara. Bene. No. Alessia. Numero 2, Alessia number 1. Eccola. Daniela. Esatto, Alessia autocelebrata, Alessia numero 1. Questo. Addirittura più umile, va bene. Io sono principessa. Addirittura. Ma sempre veramente. Sempre la ragazza dello psichiatrico, non è ancora arrivata l'ambulanza, ma brevissimo arriverà, quindi la lasciamo sfogare in questi secondi, poi finalmente la potranno curare e dare un po' di medicine e farla tornare normale. Allora, a parte l'info point, voi ragazze cosa fate di bello nella vita? Io sono prostitute. Quinto anno, non ascoltate le voci che arrivano dalla vostra coscienza, non è la vostra coscienza che parla. Lingue quinto anno, molto bene. Bancaria, perfetto. Vabbè. Io le escort. L'avevamo capito? Beh, insomma, capito. Sì, l'hai detto tre volte, quindi insomma. Io lavoro in un negozio di scarpe. Negozio di scarpe, se ne vergogna tra l'altro perché si è messa a ridere. No, il mio negozio di scarpe ha travagliato. Oh, sempre. Bellissimo! L'unico, the best one. Come si chiama allora? Come si chiama? Pubblicizziamolo, anche i fan. Pubblicizziamolo subito. Sì, dal DMC Calzature via Napoleone 53. Venite a trovarci perché iniziano i saldi. Perfetti. Esatto. Tra l'altro, una volta che entrate nel loro paese dovete parlare solo allungando l'ultima vocale in modo infinito, perché sennò non siete, non siete ben accetti. Allora ragazze, volete mandare un saluto, fare un augurio a qualcuno in particolare? Ciao mamma! Giustamente? Che tra l'altro sarà contentissima di tutto quello che hai detto in questi minuti. Anche secondo me, esatto. Se venite all'auto, Francesco, sabato 4 iniziano i saldi. Anche lì, saldi. Quindi sono questi tre manzi fuori. Quindi prima prendetevi le scarpe da lei e poi andate all'auto della Franciacorta a comprare il resto. Prima chiedete un No, le scarpe da te ho detto prima, no. Poi all'auto per il resto. Non è che possiamo... Non è che possiamo andare in giro solo con le scarpe, dobbiamo anche metterci altre robe. Anche secondo me. Esatto. Poi altri saluti. Tu vuoi salutare? Diciamo anch'io alla mia mamma. Giusto. Bene, bene. E il Riba, il bonifico bancario, vuoi salutare qualcuno? Mettiamo l'IBAN a disposizione, se volete fare qualcosa. Al seguente giusto. IT00000871, grazie. Giusto approfittare dello spazio pubblicitario. Anche se fuori. Ma volete cucinarli? Allora, non li conosco. Quelli che ci stanno guardando sono i morosi delle mie amiche. Io non li conosco. Ah, beh, allora, quelle là, quelle là, noi facciamo cose. Quelli bassi delle altre. Non voglio entrare nell'intimità dei vostri rapporti, perché non vorrei, esatto, creare casini. Esatto, grazie. Ciao, per mamma. Il chiarimento. E tra l'altro, se sono con le vostre amiche, però sembrano più interessati a voi che a loro, no? Che amiche? No, chi? Qui, con chi stanno queste cose? Nicola, stai confondendo le acque. Ah, allora giusto, allora io vedi. Sto con lui. Lei mi ha detto. Perfetto. No, lei mi ha detto quella fuori, quelle fuori, avevo capito che ci fossero le amiche fuori. No, Nicola, sei un bene. Po'. A posto, abbiamo recuperato. Quelle che lavorano sono single. Bene, e loro due stanno insieme. È un triangolo. È un triangolo. Ok, dobbiamo fare delle pipi, non tra più due. Non l'avevo considerato. Ok, adesso possiamo andarcene e lasciarti in pace. Penso che potremmo aver fatto abbastanza per questa sera. Stanno mettendo sulla canzone. Adesso tra poco, appena finiamo, dai, decidiamo. Stanno, esatto, mi mette confondendo. Penso che sarei abbastanza stufo in questo momento. No, è bellissimo, bellissimo. Poi te lo no, è tutto normale, è tutto nella norma, non no, ti preoccupare. Abbiamo intasato la radio, quindi potremo andarci. No, va benissimo, i ragazzi sono arrabbiatissimi con voi, vi vogliono cucinare per le feste. Esatto, cucinare per le feste. Allora, ragazze, volete aggiungere qualcosa? Volete... Direi che abbastanza. No, ma sei molto bravo. Esatto, perché non no, potete farle voi se volete. No, ci facciamo delle domande. Fatevele da sole. Noi non ci aspettiamo niente dal 2020. Zero aspettative. È tutta una sorpresa. No, non sarete sicuramente deluse. No, alle 3S sono la regola sempre. Non me le dire, salute, non me le dire, perché soldi, la terza me la paura. Sesso. Ecco, la terza sempre me la, sesso la terza me la. No, no, sempre, terza. Sempre sesso sicuro. Assolutamente. Perché ha indicato lei? Perché l'ha detto lei, la citazione. Ah, ok, no, perché credevo andate in banca per il sesso sicuro, non sapevo che. No, è sesso, lo dico sempre io. No, l'ha detto lei, non è che devi prendertela con me. Allora, in realtà SSS è sempre solo sesso. Poi se capita sicuro è meglio. E poi, esatto, sicuro sempre, proteggetevi. Se capitano i soldi e la salute, è un di più, è un così di più, ogni un tanto. Di più. Così ogni nel tanto. Nel tempo libero. Così ogni tanto. Intanto ricordate che se avete bisogno di informazioni venite di ogni genere, andate ciao. Da lei, vi dà tutte le informazioni che di cui avete bisogno. Grazie mille ragazze, lei si sta provando con un altro. Questa, nel frattempo forse da tipo radiofonico. Dici? Forse è un po' il suo lavoro, però. Niente. Aspetta, non parlate in sette contemporaneamente. Se no, mi sbarello. Non sì, no, se parlate contemporaneamente. Cosa fai nella vita? Nella vita io do informazioni a un altro punto vendita. Ah, Irene, è un nostro amico. Un vostro amico che si è imbucato nella festa. Sì, si è imbucato. Ciao, mi chiamo Luca, ho 26 anni. Da quanto non bevi? Sono no, in realtà sembravi un concorrente di Ciao Darwin, comunque. Da dove vieni? Lui viene da invece da lingua tagliente, ragazza, Beh, non mica ha detto che... Non so. Vengo da Lograto. Cioè, vicino a Travagliato. Vicino a Travagliato, però finisce con la fa rima con Travagliato. Fa caldissimo, però. Sì. Infatti adesso... cioè, apriamo il frigo? Perché c'è tanta figa e... Andiamo. Lasciamo lo spazio. Delicatissima. Scusate, ciao mamma. A posto. Vagina. fermate sta ragazza perché è incontenibile, non, cioè, non riusciamo a controllarla. Guido. Ok, allora va bene, perfetto ragazze, se avete detto tutto salutiamo, ringraziamo e diamo una buona notte a tutti quelli che ci stanno guardando. Auguri, ciao ragazze. Ciao ragazze.